si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. 7:35 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 10, la rassegna stampa, quindi un'occhiata ai giornali di oggi dove naturalmente si parla, ci sono retroscena, l'attesa per la votazione di oggi, la quarta votazione di oggi per il capo dello Stato, dovrebbe essere sicuramente la volta buona e il quorum di 505 grandi elettori alla portata di mano del candidato Sergio Mattarella. Poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, apriremo il numero verde, parleremo, ve lo dico subito, visto che oggi è l'ultimo giorno utile per pagare il canone RAI, chissà che non sia l'ultima volta, perché insomma il governo ha promesso, ha annunciato di volerlo inserire in bolletta, collegandolo tra l'altro a livello di reddito misurato con l'ISEE, cioè la possibilità di pagarne meno e di pagarlo in base al reddito. C'è chi vuole abolirlo, c'è online una petizione di Altro Consumo, l'associazione dei consumatori che chiede ancora una volta l'abolizione del canone RAI, ma a noi piacciono le persone propositive, allora c'è una proposta in campo ed è il crowdfunding per la RAI, se volete una sorta di bilancio partecipativo dove in sostanza paghi e decidi, ognuno pagando il canone dovrebbe poter scegliere quali programmi RAI finanziare e quanto. Per esempio, voi finanziereste, che ne so, Porta a Porta, oppure Ballando sotto le stelle, oppure il nuovo programma flop di Raffaella Carrà, Forte Forte Forte, quello magari no, oppure invece finanziereste volentieri Quark di Piero Angela e Alberto Angela. Ne parleremo più avanti, adesso, come detto, andiamo sui giornali di oggi. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, come detto, sui giornali titoli dedicati quasi esclusivamente direi alla elezione del Presidente della Repubblica. Cominciamo con il Corriere, più consensi per Mattarella, Presidente, l'appello del Premier ai partiti, centristi verso il sì, ma sulle riforme si cambia, Forza Italia che annuncia scheda bianca. Renzi avverte Alfano, non puoi non votare. Proprio su questo asse Renzi, Alfano e in lontananza anche Berlusconi, in lontananza perché è fuori dal patto di governo, ma a questo punto si allenta anche il patto del Nazareno, forse, o quantomeno c'è una battuta d'arresto. Questo è l'asse su cui si sta discutendo in queste ore. C'è anche una notizia però sulla prima pagina del Corriere della Sera, diciamolo subito: meno disoccupati, 100.000 nuovi posti di lavoro. Questa è una buona notizia, passo importante per uscire dalla crisi. La disoccupazione scende al 12,9%, cresce l'occupazione. Per l'Istat sono 93.000 solo a dicembre dell'anno scorso i cittadini che hanno trovato un lavoro, e questa è una notizia che ricorre, adesso la vedremo più nel dettaglio più avanti. Ma torniamo all'asse, dicevamo, Renzi, Alfano, Berlusconi, così il Corriere. Il patto del Nazareno rimane, la maggioranza di governo non cambia. Sera Renzi trae il bilancio di queste giornate convulse che porteranno all'elezione di Mattarella. È soddisfatto il Premier. Alla fine della festa la sua maggioranza non è appesa a Sel, perché il nuovo centrodestra voterà per Mattarella e lui non ha veramente rotto con Berlusconi, perché il leader di Forza Italia ha rinunciato all'Aventino e ha confermato la scelta di votare scheda bianca, così come aveva promesso. Sull'altro lato si analizzano i rapporti tra Alfano e Berlusconi, che si erano ricomposti in questa, diciamo, alla vigilia del voto per il capo dello Stato, ma che adesso sono destinati di nuovo a allontanarsi, scrive il Corriere. Oggi Alfano starà con Renzi nelle elezioni di Mattarella a capo dello Stato, ma domani starà di nuovo con Berlusconi, già nelle alleanze per le elezioni regionali. Ed è vero che ha separato separarli. Alfano e Berlusconi, rimane il governo, che era e resta una contraddizione forte per chi intende poi allearsi alle politiche, ma la ripresa delle relazioni tra Alfano e Berlusconi è troppo recente per poter trasformare un abbozzo di disegno già in un progetto. In sostanza succede, Berlusconi dice di avere una faccia sola, dunque oggi farà votare scheda bianca a Forza Italia, perché si rende conto che la caduta del governo non può essere allineata all'elezione del Presidente della Repubblica, mentre per Alfano la caduta del governo non può essere legata a un nome come quello di Mattarella, un ex democristiano, come ex democristiano è anche Alfano. Con Mattarella Renzi è riuscito quindi a tenere ancora divisi Berlusconi e Alfano, era il suo obiettivo e l'ha centrato, scrive il Corriere, che prosegue: se è vero che ieri non ha voluto chiamare il leader di Forza Italia, Renzi, ma si è speso solo per garantire il voto favorevole dell'alleato di centro. Un'altra notizia, no, anzi, continuiamo con questi approfondimenti, con il retroscena, perché Repubblica, Quirinale, il giorno di Mattarella, il titolo, riporta la versione di Casini. È abbastanza interessante perché Casini era uno dei papabili e poteva essere una mossa con la quale forse Berlusconi, tornando un po' indietro rispetto ai rapporti recenti freddi con Casini, anche se la rottura viene da lontano, avrebbe potuto sparigliare un po' le carte. Perché sentiamo, intanto Casini che si smarca dall'accusa di stare lavorando contro Mattarella: lavoro da due giorni per portare Forza Italia a convergere su Sergio, poi però si toglie qualche sassolino alla scarpa. Metà pomeriggio Pier Ferdinando Casini si prende sotto braccio i falchi forzisti Minzolini e Romano e comincia a parlottare animatamente, poi confida: sto lavorando per riportare le pecorelle smarrite all'ovile. Perché una cosa gli preme smentire a Casini, la leggenda nera che lo vorrebbe al lavoro per far mancare i voti a Mattarella, ovviamente prodomo sua, visto che fino a due giorni fa figurava tra i candidati per il Colle. La mia candidatura, come quella di Amato, nasceva, dice Casini, nella logica del patto del Nazareno, e così la pensava anche Renzi. Poi se ne è uscito fuori con Mattarella. Che le devo dire? A me ha raccontato che sul mio nome non ci sarebbero stati i voti della minoranza PD, eppure Bersani mi aveva assicurato di non avere nulla in contrario, salvo il fatto del tutto legittimo che il mio nome avrebbe dovuto farlo Renzi. Una cosa logica, guardate che anche Fitto avrebbe votato per me, persino la Merkel, dice Casini, nell'incontro di Firenze con Renzi ha speso parole buone nei miei confronti. Quindi c'è un Casini abbastanza offeso per non essere entrato in pista, nemmeno in pista, per giocarsi la partita del Quirinale. E, certo, Mattarella ricompatta la sinistra molto più di quello che avrebbe potuto fare Casini, perché Mattarella è stato nell'Ulivo, quindi è più gradito a SEL e alla sinistra del PD. Però Casini poteva essere una carta da giocare, avrebbe dovuta, io credo, giocarla Berlusconi d'anticipo, avrebbe forse messo in difficoltà Renzi, chi lo sa. Sempre Repubblica c'ha questo racconto di Concita De Gregorio che è abbastanza divertente, e che è questo, diciamo, no? Politici che girano in Parlamento, alla Camera, gesticolando delle cose incomprensibili. Dice Concita De Gregorio: si incrociano facendosi da lontano larghi sorrisi e sempre lo stesso segno con le mani, 1 e 8. Sembra una morra cinese, immaginate, no? Le mani con l'uno e con l'otto. Un gioco cifrato di mimi, sembrano agenti di borsa, invece sono tutti vecchi democristiani. 1-8, sì, ok, messaggio ricevuto, 1-8 anche qui. 18, si legge 18, ci vuole giusto qualche minuto a capire di cosa si tratta. Quel minuetto di dita, di mani, di sorrisi coi denti, significa più esteso 2018, cioè arriviamo alla fine della legislatura, tranquilli ragazzi, tutti amici, è tutto a posto, a casa non si va, cioè il messaggio è: votate Mattarella, il governo Renzi non cade e arriviamo tranquillamente alla fine della legislatura, non perdiamo il nostro stipendio. Lo ricorda Roberto Formigoni, che chiama questo il partito delle mogli, anche se poi si schermisce, non è un'invenzione mia ma di Andreotti, il partito delle mogli che da casa, agli ordini di scuderia e alle logiche di partito, oppongono le ragioni del mutuo da pagare, i libri per i bambini, l'iscrizione al calcetto, le vacanze, insomma, nella casa grande dove entra anche la suocera. La espressione il partito delle mogli, ricorda Formigoni, viene da Andreotti, che insomma la sapeva lunga, e questo è quello che racconta Concita De Gregorio. Se non votiamo Sergio andiamo tutti a casa, votiamo Mattarella e la legislatura continuerà. Anche Repubblica ha la notizia sull'aumento dei posti di lavoro a dicembre, se ne occupa in prima pagina Il Sole 24 Ore. Diamola come buona notizia, vai questa qua, vai. And now the good news. Come sapete cerchiamo sempre di trovare buone notizie da tutte le parti, questa volta non c'è da andare lontano perché è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Abbiamo già detto, la disoccupazione è in calo, in un mese 93.000 posti di lavoro in più, a dicembre inversione di rotta anche tra i giovani, l'Istat dice il PIL in ripresa nel primo trimestre, e poi c'è il commento di Alberto Orioli, buon segnale in attesa del Jobs Act, diciamolo tutto, il Jobs Act non c'entra ed è un bene, il dato positivo sull'aumento dei posti di lavoro è dovuto ad altre ragioni, ma il fatto che la riforma del lavoro a quella data non fosse ancora operativa è positivo, perché c'è da aspettarsi che il 2015 del lavoro, se si dispiegheranno tutti gli effetti riformisti del pacchetto Poletti, possa diventare a maggior ragione davvero un'annata buona, e questa è una ottima notizia. Ci fermiamo per il traffico. Eccoci qua, riprendiamo, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno intanto da Alessio Maurizi, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, cioè dalla prima pagina del Sole 24 Ore e dalla buona notizia della disoccupazione in calo, in un mese 93.000 posti di lavoro in più creati a dicembre. Il Sole 24 Ore ci ricorda anche, con un titolo principale, che mentre in Italia l'attenzione è concentrata giustamente sull'elezione del capo dello Stato, però è successo qualcosa in Grecia. Braccio di ferro Atene Eurogruppo, c'è stato il primo incontro tra il ministro delle finanze Varoufakis e il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, insomma non è andata benissimo, muro contro muro tra il nuovo governo greco e l'Unione Europea. Il ministro delle finanze greco ha annunciato che il governo greco non tratterà più con la Troica, e tra l'altro ha proposto di ridurre anche l'avanzo primario, cioè insomma i soldi che il governo greco ha in cassa, lo Stato greco ha in cassa, che dovrebbero servire a ridurre il debito secondo la Troica, secondo l'austerity, secondo Berlino. Il governo greco li vuole spendere per fare qualcosa per i greci, e quindi l'avanzo primario imposto dai creditori dal 4,5% scenderà all'1%. La replica di Dijsselbloem è stato: non è la strada giusta da seguire. E quindi insomma si è aperto più che un dialogo, quello che al momento appare, sarà una melina, ma insomma appare come un braccio di ferro su punti di vista diversi. Certo che l'Europa qualcosa dovrà cedere a Atene, che ha appena votato democraticamente un governo che insomma la pensa diversamente, un'intesa andrà trovata. Prima di tornare al tra l'altro all'elezione del capo dello Stato con gli altri giornali, oltre a quello che abbiamo letto sin qua, c'è un'altra notizia, la riprendiamo dal Corriere, anche questa è giusto darla. Contratto dei bancari, la protesta, paghiamo le colpe dei manager. Ieri c'è stato lo sciopero e la protesta dei bancari, che secondo i sindacati è andata bene, oltre il 90% di banche chiuse. Bisogna tornare al rinnovo del contratto dell'aprile 90 con Carlo Donat-Cattin, ministro del lavoro, pensate un po', per trovare un'altra mobilitazione dei bancari come quella vista ieri in giro per l'Italia. Allora si arrivò a poco meno di 100 ore di sciopero, ad oggi le giornate perse sono soltanto 2. Secondo le stime delle sigle sindacali, Il 90% dei bancari ieri ha incrociato le braccia, il 95% degli sportelli è rimasto chiusi, 30.000 le persone in piazza, 7.000 a Milano. L'ABI, l'associazione delle banche, cioè i datori di lavoro di questi lavoratori, però non arretra. Con un comunicato ieri ha sottolineato sì la volontà di arrivare a un rinnovo del contratto di lavoro, ma nello stesso tempo ha ricordato che la scadenza del 31 marzo, oltre la quale il contratto sarà disapplicato, resta chiara e netta, cioè si va verso una disapplicazione del contratto di categoria, cioè i lavoratori delle banche, i bancari resterebbero senza contratto di lavoro. Sono finiti i tempi in cui questi lavoratori avevano molti privilegi o avevano comunque dei vantaggi dai contratti di categoria. Oggi non è più così, quindi è giusto anche parlare di questa protesta di questi lavoratori. Molti rischiano il posto, scrive Corriere, 32.000 posti di lavoro a rischio nel sistema creditizio, 32.000 posti di lavoro a rischio. La risposta alle parole dell'ABI ieri in manifestazione, le manifestazioni sono stati fotomontaggi che immortalavano banchieri come Carlo Messina, Alessandro Profumo, Federico Ghizzoni nei panni dei pirati ai Caraibi, cioè questa almeno la percezione dei lavoratori dei bancari che rischiano di perdere il posto di lavoro, perdono quote di stipendio che quantomeno non vengono aggiornate, mentre dall'altra parte i manager delle banche nella veste di pirati incassano bonus e stipendi miliardari, milionari, parlando di euro, e questo non va giù ai bancari. Torniamo a Quirinale con alcune prime pagine degli altri giornali, così la vede Libero. Oggi Mattarella presidente, il figlio del Porcellum. Cosa è andato a trovare Libero? Questo. Franchi tiratori permettendo, Renzi avrà il suo capo dello Stato personale, però riuscirà ad eleggerlo solo grazie al premio di maggioranza che lo stesso ex ministro DC, da membro della Consulta, ha bollato come incostituzionale. Scrive Belpietro, la sua tesi è questa: un uomo che ha dichiarato incostituzionale il sistema con cui è stato eletto questo Parlamento e che dunque ha etichettato come abusivi 148 onorevoli di PD e SEL eletti col premio di maggioranza, può poi accettare che quello stesso Parlamento lo nomini capo dello Stato? Domanda che ci può stare, la risposta è difficile darla perché insomma un capo dello Stato questo Parlamento lo deve eleggere, che non sia Mattarella ma sia un altro, resterebbe il fatto che la Consulta ha dichiarato incostituzionale il metodo di elezione, ma allora con cui è stato eletto questo Parlamento, però andando a ritroso bisognerebbe allora cancellare gli effetti di tutto quello che hanno fatto i parlamenti precedenti eletti col Porcellum, che è stato poi dichiarato incostituzionale. Chiaramente non si può, bisogna andare avanti, guardare avanti. Comunque la domanda che pone diciamo Belpietro ha un valore soprattutto etico, perché Mattarella nella Corte Costituzionale ha detto che il Porcellum è incostituzionale, adesso si ritrova votato da questo Parlamento. Va bene, il giornale la vede così invece. Renzi ricatta Alfano. Oggi il voto decisivo per il Colle. Berlusconi, ancora deluso da Matteo, deciderà stamattina. Il commento è questo: Alfano ha visto il vero volto di Renzi e ha chinato il capo. Al capo del governo che non è sorrisi, non è pacche sulle spalle, non è un alleato, non è l'amico, il coetaneo, il quarantenne, non è neppure il rottamatore boy scout. Quella è la maschera che Matteo porta in giro, sotto c'è un dittatore cinico spietato che sulla questione Mattarella ha fatto capire chiaramente cosa pensa degli amici del nuovo centrodestra. Stanno lì fino a quando servono in cambio di una manciata di poltrone. Se provano solo ad alzare la testa, lui li schiaccia con un semplice gesto della mano. Angelino alla fine ha dovuto accettare il ricatto, ma ora sa perfettamente con chi ha a che fare. La consapevolezza spesso è una buona arma per il futuro. Cioè, l'evocazione del giornale è che Alfano prima o poi molli Renzi e torni con Berlusconi. Il Fatto Quotidiano scrive così invece: il caimano in ginocchio da Renzi, Alfano ricattato torna a Cuccia. C'è anche una ricostruzione di quello che sarebbe avvenuto ieri tra Alfano e Renzi, abbastanza interessante. Un ultra renziano di primissima fila, Spavaldo, confida ai cronisti: guardate che domattina alle 9 arriverà una dichiarazione congiunta di Berlusconi e Alfano che dicono sì a Mattarella. In realtà il ministro dell'interno cede prima ed è proprio Renzi, in un colloquio teso a rinfacciargli il delicato ruolo ricoperto al Viminale. Ma ti rendi conto? Se il ministro dell'interno dovrai avere rapporti costanti col capo dello Stato, che fai, non lo voti? Risposta di Alfano: ma io sono un grande elettore, ho il diritto di decidere cosa fare. I toni si alzano. Angelino cerca di fare la faccia feroce. Matteo, sinora ci hai sempre trattato con sufficienza. Se vuoi meritarti la nostra considerazione, il primo passo fallo tu. Fai un appello e poi vediamo. L'appello poi è arrivato, l'appello di Renzi ad Alfano. Alfano voterà per Mattarella e a meno di franchi tiratori questo sarà l'esito. Vedremo. Occorre aspettare ancora un'ora e mezza perché alle 9:30 inizia la votazione. Noi ci fermiamo qua per ora con i giornali di oggi. C'è il giornale radio, poi torniamo subito dopo e apriremo anche il numero verde 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ben ritrovati, 800 24 0024, cominciate da subito a prenotare il vostro intervento, vi aspettiamo. Sì signori, e anche perché aspettiamo il Presidente della Repubblica, che sì. Però temo che non avverrà durante la nostra diretta, giusto? Eh no, a meno che non lo leggono in 20 minuti. Se si facesse, sono mille però che devono se votare. Se si votasse con l'iPad dalle 9:35 alle 9:38 avremmo il nome del Presidente. Ah, cioè tu hai una proposta, diciamo, di metodo? No, in questo momento non si può parlare rivoluzione di metodo. Digitale. Mi stai assolutamente mettendo all'angolo, perché il grande problema di tutta questa elezione è il problema del metodo, che non va bene il metodo, perché pare che anche alla destra vada bene Mattarella, ma non va bene il metodo, perché ecco. È come è stato scelto da Renzi. E perché? Che umore hai raccolto su questo metodo? Il metodo del fatto, diciamo, che Renzi abbia tirato fuori dal cappello questo nome inviso alla destra. Che sì. Poi c'è ancora da chiedersi, anche però, se è così sì. Inviso alla destra. Sì. Non voglio fare il solito complottista, diciamo. Guarda. Però ci sono dei momenti in cui penso: ma se in realtà Berlusconi e Renzi si fossero messi d'accordo su Mattarella e adesso stessero facendo questa enorme sceneggiata per cui Mattarella alla destra sì. Va malissimo? Il super complotto. La pensa come te, pensa un ascoltatore, Osvi1000. 172 su Twitter, che scrive: tutta una sceneggiata, il nome sembra che ti abbia letto nel pensiero, il nome di Mattarella fatto da Berlusconi a dicembre, come scrisse Libero il 31 dicembre. Io non ricordavo che ci fosse stato questo endorsement, però sì comunque lui non aveva messo il veto, Berlusconi non mise mai il veto, diciamo, potrebbe essere una scelta Mattarella e lo possiamo dire solamente prima di mezzogiorno, perché poi se dovesse essere Presidente della Repubblica non potremmo più dirlo, se no veniamo tacciati di vilipendio. Oggi parleremo della RAI tra poco, perché oggi è l'ultimo giorno per pagare il canone RAI. Abbiamo una proposta, una bella proposta per andare oltre il canone. Qualcuno vorrebbe abolirlo, c'è una petizione online, abolisci il canone RAI. Noi invece abbiamo una proposta. Metterlo sempre anche a Radio 24, il canone RAI, esatto. Obbligatorio. Oltre questa proposta ce n'è un'altra bella, ve la racconteremo tra poco. Il crowdfunding per la RAI. Però, il gioco, dobbiamo dirlo subito, perché si lega a quello che abbiamo detto fino adesso su Mattarella. Insomma, Napolitano adesso in pensione, finalmente si potrà godere dopo 9 anni e un po' di meritato riposo, ma consigliamo anche qualche hobby. Cioè, cosa deve fare il presidente da domani, sì. Diciamo? Sì, cioè, non puoi che può stare lì a casa, perché poi Clio lo manderà fuori a fare una passeggiata, abituata a stare in casa tranquilla, a gestirsi le sue cose. Tra l'altro, secondo me, vista l'età di Giorgio Napolitano e visto che è stato 9 anni al Colle, secondo me forse gli si poteva lasciare anche 2 stanze al Colle dentro. Le sue stanze a Palazzo Giustiniani, no, non proprio certo, al Colle. No, certo. Cioè, tu dici proprio di lasciarlo? Beh, però. Ma, cioè, no, in effetti tipo Papa Ratzinger, che rimane come Papa emerito. Esatto. Anche Napolitano come presidente emerito. Stavo addirittura pensando quasi che potesse fare il badante di Mattarella, però forse è un po' troppo, in effetti. Oddio. Tra i due, no, nel senso che non era sveglio. Una battuta politica, no. Non voleva essere una battuta politica di gestione. Comunque, del potere di Re Giorgio e così via. Noi, cari ascoltatori, all'800 24 0024 vi chiediamo appunto di darci un consiglio. Consigliamo un hobby a Napolitano, la collezione di francobolli. Non so se si fa ancora, però esiste ancora la collezione? Certo che esiste ancora. Come io colleziono tutto. Tu sei quello che colleziona tutto, qualunque cosa, più monete. Poi francobolli non l'ho mai fatto, perché la faceva uno dei miei fratelli. Ci siamo un po' spartiti. Vedi. Le collezioni in famiglia. Oppure il burraco, anche se non è un hobby ma è un gioco. È un gioco che di va carte, molto di va moda moltissimo. Adesso. è un po' d'anzianotti, forse. Beh, Napolitano lo sì, è. Sì, sì, no, no, assolutamente. Oppure assolutamente. La pittura, che fa molto chic. Oppure le torte. Però un ex capo dello Stato che fa le torte non si può dire, non va bene. Beh, perché? Sarebbe bellissimo. Sarebbe bello. E poi pasticceria Napolitano, mi sembra bellissimo. Io temo, spero solamente una cosa. Spero, oddio, non lo so cosa spero, però che domani non si sia qua a proporre un hobby per Mattarella nel caso che oggi non dovesse farcela, ecco, diciamo. Questo ci potrebbe stare. 800 24 00 24. Quali sono i vostri hobby? Chiamateci. Sì, come sempre, la proposta più originale, più interessante. Anche oggi mettiamo in palio. Questa volta cambiamo. Abbiamo un'altra mostra. Biglietti della mostra del FAI, Wim Wenders America. Una mostra fotografica a Villa Panza. Una mostra del FAI a Varese. Con gli scatti fotografici di Wim Wenders, che grande regista. C'ha, l'occhio ce l'ha, l'occhio assolutamente. Del fotografo. E quindi una bellissima mostra. Allora, 800 24 00 24, l'abbiamo già detto. Non abbiamo che da iniziare. Pagina Facebook, si può fare Trattino Radio 24. L'account chiocciola si può fare 24. E i nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini. E il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso parliamo di questa proposta per superare o migliorare il canone della RAI. Oggi è l'ultimo giorno utile per pagare. Viva la RAI! Viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI, con il suo impero dice la RAI, soltanto intero. Viva la RAI, dimmi da quale parte stai. Viva la RAI, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario RAI. Viva la RAI, che cosa è giusta e con la RAI è sempre festa. Viva la RAI, coi capoccioni e gli operai. Loro sono due ricercatori dell'Università di Milano, Tiziano Bonini, che tra l'altro è stato anche autore a Radio 24 per un lungo periodo, e Ivana Pais, ricercatrice in sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e stanno indagando proprio questo, cioè i nuovi metodi per finanziare i progetti, bilancio partecipativo nei comuni, dove si chiede per esempio ai cittadini come spendere il denaro pubblico. C'è anche il crowdfunding, non abbiamo parlato spesso, cioè il finanziamento dal basso di iniziative imprenditoriali. Entrambe hanno in comune una cosa: paghi e decidi anche come spendere. Pensate a cosa accadrebbe se tutto questo si applicasse al canone RAI. Paghereste qualche euro in più per finanziare un programma piuttosto che un altro? Perché si parla di pagare in più, perché se si parte così, diciamo, si parte già male. Ne parliamo e lo chiediamo subito a Ivana Pais. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ricercatrice di questo progetto che si chiama Canone Reloaded, e appunto, come detto, ricercatrice all'Università Sacro Cuore di Milano. Questa proposta nasce in realtà da uno studio che state facendo. Di che si tratta? Sì, noi da un po' stiamo studiando il crowdfunding, appunto, che è questa modalità di finanziamento collettiva dove tante persone si uniscono, si crea una comunità intorno a un progetto, lo finanziano, ma non solo, nel senso che l'accento è sempre sul finanziamento, ma poi l'aspetto più interessante è che una comunità si prende cura di un bene, spesso di un bene pubblico. E infatti sta crescendo il crowdfunding, appunto, detto civico, che è quello che si più attento ai beni pubblici, dove i cittadini che da passivi diventano attivi, perché insieme al finanziamento mettono risorse per gestire un bene comune. E ci sono esperienze ormai anche importanti, per esempio i portici di San Luca a Bologna sono stati finanziati e gestiti con questa modalità e hanno raccolto più di 300.000 euro. Ci siamo chiesti se questo modello si potesse applicare anche al canone, quindi abbiamo provato a costruire un giochino, un esperimento per capire se le persone potrebbero essere interessate ad applicare questo metodo anche per il canone. E avete chiesto di partecipare e di esprimere la propria opinione, state raccogliendo queste opinioni, anzi vogliamo dire anche come si fa a partecipare a questa ricerca? Sì, c'è una pagina Facebook, il modo più facile, una pagina Facebook che si chiama proprio Canone Reloaded. Benissimo, e cosa sta venendo fuori da questa vostra, diciamo, ricerca e quindi dalla valutazione della disponibilità delle persone proprio a fare questo passo? Allora, i risultati li stiamo stiamo ancora raccogliendo. Sicuramente si è creato un dibattito interessante, perché il modello, per come l'abbiamo proposto, poi ovviamente si possono immaginare varianti, ma il modello è questo. Attualmente noi entro oggi appunto dobbiamo pagare 113,5 euro. La nostra proposta e il gioco è: saresti disposto a pagare 5 euro in più, quindi 118 euro e mezzo anziché 113, e poi però poter decidere come destinare 20 di questi euro e decidere a che programma vanno. A quel punto, nel momento in cui tu decidi a che programma destinare una parte della tua quota del canone, sì, hai diritto, in funzione di quello che hai versato, a partecipare in un modo più o meno attivo a quel programma, per arrivare anche con versamenti più significativi, anche una partecipazione alla riunione di redazione, insomma a un coinvolgimento attivo rispetto al programma che... Sì, come si fa col crowdfunding, dove a fronte di un coinvolgimento, di un pagamento, poi si entra in qualche modo nel progetto. Si hanno dei premi. Ma la cosa che mi chiedo: come mai bisogna metterci 5 euro in più? Cioè, nel senso che l'idea mi sembra molto precisa, di dire: facciamo che ognuno decide anche a che programmi destinare il proprio canone. Sì. Ma perché bisogna metterci 5 euro in più? È la differenza tra il bilancio partecipativo e il crowdfunding, nel senso che nella logica di bilancio partecipativo tu paghi già le tasse e poi decidi una quota di queste tasse come destinarle. Nel crowdfunding in realtà è un metodo anche per aumentare le risorse in campo e fare una partnership pubblico-privato, che però ovviamente sia mirata rispetto a attività di interesse del cittadino, e a questo si lega appunto una forma di partecipazione più attiva, perché poi immaginare il coinvolgimento di tutte le persone che pagano il canone RAI rispetto al singolo programma sarebbe poi difficile da gestire. Quindi sono spese di gestione questi 5 euro? Perché comunque, ma non soltanto, anche di investimento, perché se a tutti si chiede di scegliere, una persona potrebbe anche scegliere un po' a caso e indicare un programma qualunque di cui poi alla fine non interessa quasi nulla. Ci sono persone che pagano il canone RAI ma quasi poi non guardano la TV, quindi non saprebbero cosa scegliere, si troverebbero obbligati a scegliere un programma che sceglierebbero con questa modalità, senza fare una scelta vera. Certo, ma perché la cosa che mi chiedo è: non esiste già questo tipo di partecipazione da parte degli ascoltatori? Ed è il famoso Auditel, diciamo, che uno, guardando determinati programmi, in qualche modo fa la sua scelta, perché i programmi che hanno degli ascolti bassissimi poi vengono chiusi, diciamo. Questo in un mondo ideale, poi. Non sempre. Esatto. Questo in un mondo ideale. No, che poi non lo so se sia in un mondo ideale, perché io non è che penso che i programmi che vengono guardati da poche persone debbano essere chiusi, perché magari, esatto, ci sono programmi molto specifici, molto di nicchia, che però sono dei programmi bellissimi, che però non fanno gli ascolti dello show di in prima serata di Rai 1, e questo non vuol dire, secondo me, chiuderli. Cioè, non è detto che l'unica cosa sia, diciamo, la maggioranza sempre. No, qui poi in più c'è proprio l'elemento di poter partecipare al processo, dire la propria, quindi incidere in una logica un po' più di coproduzione del programma, in cui gli ascoltatori diventano parte attiva, quindi non si limitano ad ascoltare, non c'è soltanto un processo di registrazione del numero degli ascolti, ma c'è un coinvolgimento più attivo, che è una tendenza in atto in generale in tutti i media, ma anche nella produzione in generale. Cioè, anche le aziende stanno costruendo sempre più modalità per includere i propri clienti nel processo produttivo. Però è molto difficile, non so, sarà che faccio anche l'autore televisivo, ma io mi immagino in una riunione, già bisogna andare con i vertici, diciamo, della RAI. Cioè, questa riunione allargata, ci sono anche 172 persone che vogliono dire la loro, diventa molto difficile. Comunque, o sbaglio? Sì. Qualche esperienza però molto interessante, anche in Italia qualche quotidiano l'ha fatto. Gli input che arrivano cambiano la qualità poi del prodotto, così come nelle aziende il raccogliere l'input diretto dei clienti cambia poi le modalità di progettazione. Poi alla lunga è vero che è un processo più faticoso, però sulla qualità del prodotto l'esperienza, per esempio, delle aziende ci dimostra che poi i risultati sono ottimi. E ci sono processi poi si alzano anche le vendite, se ragioniamo in termini aziendali. Ma a questo proposito, ci sono casi, non so, in Europa, altri paesi dove qualcosa del genere si sta sperimentando, o come viene, diciamo, trattato in maniera nuova il tema del canone per il servizio pubblico radiotelevisivo? E in Europa ci sono già modelli diversi rispetto al nostro. Sì. Non abbiamo ancora individuato, ma stiamo facendo ricerca, però al momento non abbiamo ancora individuato modalità di applicazione diretta del crowdfunding. Saremmo dei pionieri se qualcuno vi ascolta. A Renzi piacciono le cose moderne, le cose nuove. Il crowdfunding è una cosa che va di moda adesso, chissà che questa cosa non lo intrighi. E voi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, sareste disposti a finanziare con 5 euro in più di canone però un programma in particolare piuttosto che un altro? Che ne so, vi piace Porta a Porta? Quark, io ho fatto questi esempi. E io 5 euro per mettermi in una riunione di Porta a Porta li metto subito. O di Ballando sotto le stelle, esatto. Se vuoi conoscere qualche VIP. Che ne so. 800 24 00 24. Ivana Paesi, io farei l'in bocca al lupo per questa ricerca che comunque è interessante. Poi vedremo se sfocerà anche in una proposta politica. Carlo, volevi aggiungere qualcosa? No. Ok, posto. Grazie. A grazie presto. Mille. Buona giornata. Canone Reloaded lo trovate su Facebook, c'è una pagina per partecipare a questa ricerca. 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Allora, su Twitter Ange Brixia scrive: oggi con Mattarella torna la balena bianca democristiana. E fin qua. Poi scrive anche: Quark non credo sia più nel palinsesto Rai da un decennio. Hai ragione, caro amico ascoltatore. Adesso si chiama Super Quark, non è più Quark. Però qualche puntata speciale di Super Quark la fanno ancora. E poi ci sono anche degli sms divertenti sul tema. Sì, c'è un sms. Intanto c'è un sms che ci chiede: se nel canone fosse compreso internet, come ho già scritto qualche anno fa, sarebbe una bella cosa. Fabio da Ferrara. Chiediamo a Fabio di Ferrara di chiamarci, perché vorremmo capire che cosa intende. Ma in che senso compreso internet? Cioè tu paghi il canone e ti danno l'accesso a internet. Però è una roba che se puoi farlo passare attraverso il televisore, sinceramente. No, è che è difficile convincere, diciamo, gli altri. Il Fastweb, Vodafone, sì. Nel senso che quella è linea telefonica. Però sarebbe un interessante abbinamento, che tra l'altro adesso alcune private compagnie fanno. E poi un ascoltatore, Roberto da Belluno, dice: sì, anche 5 euro per chiudere qualche programma, ci pagherei pur di non vedere più quel programma. In effetti anche questo ci può stare. 800 24 00 24. E tra l'altro va anche detto che in fondo la questione del crowdfunding gestita così è abbastanza simile a quello che ha fatto Santoro, o sbaglio, Alessio? Al fatto di chiedere a una base ampia di ascoltatori di finanziare, infatti lui stesso, diciamo, tutti quelli che hanno messo i famosi 10 euro sono compresi addirittura nei titoli di testa come produttori, perché inizia con Santoro e altri 100.000 presentano servizio pubblico. È un po' questa la proposta che viene da questi ricercatori milanesi. Vincenzo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo fare un'osservazione. Allora, a parte che il canone Rai mi sembra una vera e propria prepotenza, perché già il fatto che una persona compri un televisore e va a pagare un canone, perché poi mi sembra che adesso sia diventata una tassa di proprietà più che un canone televisivo. E volevo fare una proposta, nel senso, anziché inventarsi appunto queste escamotage per giustificare un aumento del canone, ma non si potrebbe applicare con tutta la tecnologia che abbiamo un sistema che, come fa Sky per esempio? Io ti apro un canale e paghi 5 euro, ti apro quell'altro canale e paghi 5 euro, così chi vuole vedere Rai, perché nulla toglie la professionalità della Rai, perché insomma non è che stiamo parlando di un... Sì, beh, quello che lei dice sarebbe in qualche modo tecnicamente sarebbe corretto, ma lei pagherebbe più volentieri il canone, Vincenzo, se potesse decidere a chi, quale programma finanziare piuttosto? No, perché come avete detto giustamente voi è impossibile questo, perché io dico 5 euro per questo programma, ma quando mai? Perché quando mai? Ma perché non è possibile? Perché 100.000 persone come fanno a capire che veramente mi sembra una presa in giro? Io preferisco pagare 5 euro e vedo il primo, pago altri 5 euro e vedo il secondo, il terzo non lo voglio vedere, non lo pago, e così via. Mi sembra. Sì, no, è molto chiaro quello che dice. Un po' il concetto da capire, diciamo, come funziona è il fatto che un canone si paga perché la RAI in teoria dovrebbe essere un servizio pubblico. Quindi in realtà non è la questione del servizio privato, ovvero io pago quello che voglio vedere, cioè voglio vedere un film, ti do 50 centesimi. E io do esistono un monte di soldi di modo che lo Stato possa fare informazione. Poi possiamo discutere sul fatto che la RAI vada bene, non vada bene, ci piaccia o non ci piace, ci mancherebbe altro. Però il concetto del canone è per quello, è per dare la possibilità in realtà poi avere la libera informazione, se vogliamo. Io non dico che la RAI non offre ottimi servizi, dico che è una prepotenza, perché se a me, per esempio, la RAI non mi piace vederla, ma voglio vedere Canale 5 o voglio vedere un altro canale, perché devo per forza pagare il canone RAI? Va bene, Vincenzo, chiaro, grazie. Quello che pone l'ascoltatore è l'eterno problema che si paga anche se non si guarda la RAI, no? E questo in effetti è una questione. Sì, ma anche perché oggi ci sarebbero le tecnologie per risolverla, non è sbagliata. No, non è sbagliata, però anzi era molto giusta la cosa che diceva, che diventa quasi una tassa di proprietà, però quella questione lì. Sì, è stata fatta però nell'altro senso, perché sennò uno tutte le volte che arrivava l'omino per far pagare il canone diceva: "No, guardi, io non la guardo la RAI". Uno diceva: "Senta, c'ha 9 televisori, mi resta un po' difficile pensare che lei non guardi mai una volta il meteo". Facciamo Fernando velocemente prima di andare al traffico da Roma. Buongiorno. Fernando. Buongiorno. Mi chiamo Fernando Scavinci. Sì. Volevo chiedere al professor Mattarella. Se può togliere viva voce Fernando, perché sennò non la sentiamo, No, ecco. È andato in automatico. Grazie, sì. Complimenti prima di tutto alla vostra trasmissione. Grazie. Perché voi siete la mia sveglia. Grazie. Ci odierà quindi? No, al contrario. Ah, vabbè. Se è contento di essere svegliato da noi, noi siamo felicissimi. Va benissimo. Quindi la mia giornata comincia con voi per tutte le notizie, tutte... diciamo l'inizio del giorno. Ottimo. Poi continua tutta la giornata. Ma lei voleva parlare con Mattarella o di Mattarella? Di Mattarella, ah. O anche con il professor qui ancora Mattarella, non, magari, non possiamo ancora arrivarci. Allora, ci dica. La questione era questa: io prima che venisse eletto la seconda volta napoletano, incontrai, io faccio il tassista prima di tutto. Il tassista? Com'è? Sì, faccio il tassista. Ah, perfetto. Sono un appassionato di taxi, per questo che gliel'ho chiesto, mi scusi. Sono 45 anni che faccio il tassista e sono stato uno dei primi più giovani tassisti di Roma. Ah, però. Ho sulle spalle 2,5 milioni di chilometri. Li ha contati? Come ha fatto? Pensavo di mutuo, ero spaventatissimo. No. Prego. L'ultima cosa. Allora, volevo dire questo. Io incontrai per caso davanti proprio al Colle, quindi a... come si chiama lì? Al Quirinale. Al Quirinale, esatto. Mattarella. Mattarella, il professor Mattarella, mi fermai, lo salutai e tutto il resto, gli dissi: "Lei sarà il futuro nostro presidente". Questo quando avvenne, scusi, questa sua profezia? Allora, questa profezia fu fatta nel momento in cui stavano facendo le votazioni per il secondo mandato di... Due anni fa. Due anni fa. E questa cosa lei naturalmente gli è rimasta in te, perché lei era convinto che sarebbe stato eletto Mattarella? Io, con il mio lavoro e tutto il resto, ho sempre delle sensazioni che mi hanno dei flash. Cioè lei ha delle antenne, dal suo taxi registra gli umori, le conversazioni, sì, le ha fatto antenne. Una media di tutto questo, è venuto fuori Mattarella. E se ma avesse Mattarella scommesso... o Napolitano? Non ho capito. No, Mattarella. Mattarella, io ho incontrato il professor Mattarella. Ah, nel 2013. Però non ci ha beccato nel 2013, possiamo dirlo? Ma lì, diciamo che lì sono stati fatti i giochetti di palazzo. Insomma, avrebbe dovuto scommettere Fernando e avrebbe vinto, forse. Vediamo. La vogliamo come grande elettore, lei, direi. Dopo grazie, dopo grazie. 2,5 milioni di chilometri si diventa grandi elettori, forse, in questo paese. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lo stupore della notte spalanca molto vintage oggi con le canzoni, con le musiche di Andrea Piana. Gabardini stava sussurrando le parole di questa canzone, bellissima, scritta da Maurizio Costanzo, tra l'altro, il testo. Parliamo di telefonare, va di moda adesso, come il Papa che telefona alle persone comuni, così anche il sindaco di Rapallo fa la stessa cosa, telefona ai suoi concittadini per chiedergli... Ha già chiamato il Papa? Come va? Per chiedergli, ha già chiamato il Papa? Sono arrivato secondo? Per sapere se è arrivato primo o secondo. Chissà che possa essere un modello anche per il prossimo Presidente della Repubblica. E chiamare i cittadini uno a uno per chiedergli se hanno delle indicazioni, dei suggerimenti, delle cose. La telefonata a Mattarella. E allora, eccolo il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, qua con noi. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno sindaco. Senta, come le è venuto in mente di fare questo, diciamo, non so se è una azione di marketing o proprio una forma, così diciamo, di fare politica nuova? Cioè lei chiama, intanto quanta gente ha chiamato lei fino ad ora? Allora, diverse persone, perché io di venerdì impiego un'ora e mezza, due ore. Ah, dedica proprio una mattinata a fare questo? Non tutta la mattinata, un'ora e mezza, due ore a fare delle telefonate dal mio cellulare, poi lasciando anche il mio recapito. Ha una tariffa apposta, ha una tariffa, sì, per sì. Cui il sabato, il venerdì paga meno, spero. Sì, infatti, ho fatto fare un pacchetto apposta. Una smart sindaco, sì. Senta, ma cosa chiede ai suoi concittadini? Ma innanzitutto chiedo se sono soddisfatti o se hanno da fare delle segnalazioni sul territorio. Questo viene perché per il mio desiderio di mantenere il contatto con il territorio. Quando si diventa sindaco, io sono stato eletto circa 6 mesi fa, tendenzialmente uno delle problematiche sono quelle che vieni proprio risucchiato dalla macchina comunale e perdi il contatto. E lei non voleva perdere questo contatto, giusto. Ecco, ma allora ho detto, come faccio? Cosa le rispondono questi concittadini? Cioè, come rimangono sorpresi, immagino? Molto sorpresi. Ma ci credono che lei è il sindaco? Poi dice, ma che è uno scherzo questo? No, ci credono perché sono abbastanza conosciuto. Lei non so se conosce Rapallo, ma è una città, una ridente cittadina di 30.000 abitanti. Momento proloquo del sindaco, sentite qua. Ecco, però è grande, 30.000 abitanti. Sì. Rapallo è famosa, è grande. Sono grandi. Sì, 30.000 e andiamo a 80.000 nel periodo estivo. Invece quindi d'estate dovrà raddoppiare le telefonate, cosa fa? Sì, ne farò doppie. Beh, no, ma chiamerà solo i suoi concittadini, non no, i turisti. No, io apro l'elenco, l'ho fatto davanti ai nostri... Gli elettori, diciamo. Sì, certamente. Questo esperimento è nato, innanzitutto le prime volte l'ho fatto con dei giornalisti della locali, no, per far vedere, per quanto riguarda la massima trasparenza, sceglievano loro i numeri. Ah, perfetto. Ah, okay, quindi... per non, che non sembrasse una messa in scena. Ma chiama, le capita anche di sentire qualcuno che non l'ha votata? Certo, però sono molto gentili, ecco. Arrivano insulti per ora al telefono. Io ero pronto, però con me sono stati molto molto gentili e molto disponibili. Senta, ma noi apprezziamo il tentativo e mi sembra sacrosanta l'idea di non volersi appunto chiudere nel palazzo e di mantenere un filo diretto con i cittadini, sì. Perché no? Oltre che con Twitter, come fanno altri, anche col telefono, perché magari gli anziani Twitter, anzi, bravo, sicuramente non lo usano. Però non è che si sta un po' esagerando con questa ricerca di essere vicini alla persona, cioè di chiedere alla gente cosa ne pensa di tutto, che ne sa una persona modesta, umile, non so di quali sono i problemi di Rapallo, che ne so, il piano regolatore o l'efficienza energetica, cosa... No, ma infatti di solito vengono manifestate richieste un pochino più semplici, però che sono delle problematiche. Ad esempio, una delle segnalazioni più frequenti sono proprio la pulizia e le buche. Sì. Beh, è giusto che sono problemi anche quelli. Ma lei che fa? Si segna tutto su un quaderno? Ecco, allora io cosa faccio? Io segno tutto su un post-it e poi faccio le segnalazioni tramite i nostri uffici e poi continuo da sindaco a sollecitare gli uffici perché poi intervengano. Ma mi scusi, le voglio chiedere, allora, io trovo che sia un progetto straordinario e le faccio veramente i complimenti, ma la cosa che trovo ancora più straordinaria è che lei lascia il suo numero di telefono dicendo se ha bisogno mi chiami. Io ho solo un telefonino, il mio telefonino ce l'ha tutta Rapallo. Ecco, è questo che io mi chiedo, no, glielo chiedo onestamente, perché io la trovo una cosa straordinaria. D'altro canto però mi chiedo, ma 30.000 persone che hanno il suo numero di telefono, che per ogni problema possono chiamarla, non, cioè, se è realmente così, non c'è un po' il rischio ingolfamento? Ho il rischio di ingolfamento familiare. Ma la chiamano poi? No, chiamano. Non è che, attenzione, aspetti. No, ma siccome la chiameranno ininterrottamente fra sei mesi. Sì, adesso il progetto è iniziato da poco. Io sono nella città, sono molto conosciuto, no? E il mio numero di telefono girava già. Però le persone sono, con me sono abbastanza educate, quindi mi telefonano molto, ma in questo momento non. Evidentemente, questa disponibilità che lei ha dato le ritorna in termini di, come dire, di non eccesso nel ricorso al suo numero di telefono. Non so se lo vuole lasciare in onda il numero di telefono, no, forse non è il caso. Forse no. Non esageriamo. Grazie Sindaco Carlo Bagnasco. Grazie mille. Buon sabato. Grazie mille. 800 24 00 24. Chissà, ripeto, che non possa essere un modello anche per il prossimo inquilino del Quirinale questa cosa qua, di fare qualche telefonata, magari non a tutti i cittadini, come fa il Papa, scegliendo situazioni. Però noi oggi vogliamo anche lobby per Napolitano. Giusto. Dovete chiamarci, dateci suggerimenti. Non mandiamolo in un call center, direi, a questo punto, visto che tutti telefonano. A rispondere alle telefonate per Mattarella sarebbe troppo brutto. Ah, questa è una buona idea invece. 800 24 00 24. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Questa che avete ascoltato è Working on the Highway di Bruce Springsteen, che è il nostro Si può fare in musica. Come sapete, cerchiamo delle canzoni che rappresentino in qualche modo Si può fare, e questa canzone è stata proposta dal nostro ascoltatore Enrico Magnano, e voi potete proporre i vostri Si può fare in musica ai nostri account social, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter @si può fare 24, oppure i nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio @AleMaurizzi. 800 24 00 24. Aspettiamo ancora suggerimenti. Consigliamo un hobby per Giorgio Napolitano. Insomma, è giusto occuparsi anche di questo momento qua della vita, quando uno passa dalla fase attiva alla pensione. Guarda che per molti è traumatico, si va in crisi, non sai più cosa fare, perdi un ruolo, perdi punti di riferimento. Allora, io ho scherzato dicendo che Clio non ce l'avrà Giorgio troppo tempo in casa, perché è abituata a gestirsi le sue cose. Le cronache raccontano invece che lei voglia proprio averlo con sé, un po' in casa, perché nel caso di Napolitano c'è anche un po' di stanchezza, certo, fisica. Ma c'è anche un buon esempio per tutto il paese, visto che è un paese che ormai va in pensione intorno ai 90 anni. Mi sembra buono che il presidente, comunque, diciamo, è andato in pensione sul tardino. Dai buon esempio da questo punto di vista. Vogliamo accendere un faro anche su questo momento della vita, quando si passa dalla fase attiva alla pensione. Inventiamoci degli hobby e diamo in questo caso suggerimenti anche a Napolitano. Nicola da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. Niente, io avevo pensato che il presidente potesse ritirarsi completamente dalla vita politica. Sì. E quindi il suo tempo dedicarlo esclusivamente alla lettura della Costituzione nelle scuole primarie. Bello, molto bello. Ma mi sembra un atto molto pratico e molto politico invece, quindi molto bello. Chi meglio di lui adesso sarebbe la persona più qualificata per entrare nelle scuole spiegare che cos'è la politica, che cos'è soprattutto la Costituzione. Giusto, solo che sta cambiando la Costituzione, quindi bisogna capire se leggerà quella vecchia, diciamo, quella nuova che stanno approvando in Parlamento. No, io leggerei quella vecchia, perché quella vecchia è molto più completa, quella vecchia è ancora discutibile. Invece quella nuova non si capisce. Non c'è ancora per il momento. Quella nuova basta leggere i giornali e capire se ci saranno delle modifiche. Però è bella la sua proposta. Non può leggere il giornale e No. La sua proposta è molto interessante, Nicola. Grazie. Tra l'altro, anche se tecnicamente questo non è un vero e proprio hobby, perché cioè, sarebbe quasi un lavoretto, insomma, nel senso è un impegno. Sarebbe un impegno. Non una cosa che lui potrebbe fare con con se stesso per ritrovarsi. Di trovare il suo tempo anche in famiglia, però un impegno. Cioè, tu lo vuoi proprio che faccia gli acquarelli vada a vedere i cantieri con gli anziani? No, in realtà è vero, è bella questo hobby, come anche diciamo vita pubblica, no? Cioè che ti faccia in qualche modo proseguire anche quella che è stata la tua attività lavorativa. Giusto, con l'esempio, sì. Certo che ce l'hai fatta. Fabio da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Ci mancherebbe, buongiorno. Mi avevate insomma invitata a richiamare l'ascoltatore che aveva proposto ottimo bene. Ricordiamo, era un SMS dove diceva ma perché pagando il canone io non posso avere anche internet, giusto? Perfetto. Abbiamo chiesto di chiamare. Esatto, niente, la proposta era, ma ho scritto anche anni addietro sempre la stessa cosa, quando le trasmissioni come voi mettevano sul piano il discorso di pagare il canone o meno, ecco. E, insomma, alla fine se per caso il comune cittadino come lo sono io potesse pagare il canone e avere anche in contraccambio un pacchetto internet, io non dico tutto l'anno, ma almeno 6 mesi gratuito, insomma, già compreso nel canone, magari rivedendo il prezzo del canone, ma insomma, ecco, mettendosi d'accordo in questa maniera qua, potrebbe essere che questa tassa, che la digeriamo mal volentieri, potrebbe essere pagata un po' più volentieri, insomma. Guai, questa era la proposta. Al di là, diciamo, della proposta, che mi sembra la difficoltà della proposta è il privato e il pubblico messi insieme, però la cosa che mi sembra molto interessante in questa proposta è che ormai internet è, diciamo, come l'acqua potabile, è obbligatorio, esatto, che tutti ce l'abbiano in casa, quindi in questo senso mi sembra molto giusto che con pochissimi soldi tutti possono portarsi a casa una connessione. Va bene, esatto. Grazie Fabio, grazie tutto per questa proposta. Grazie mille. Allora, abbiamo Maurizio anche da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Anche io vi devo dire che siete la mia radio. Bene. Vi ascolto sempre, addirittura ascolto la sera quei due folli che si riconoscono nella zanzara. E devo dire che hanno un bel coraggio, però. Vabbè, in buona compagnia, guardi che lo ascoltano in tanti, quindi. Prego. Sì. Devono avere il diritto di proseguire. gli gireremo i suoi complimenti. Grazie. Volevo dire che tutto quello che ho sentito si raccoglie in alcune esperienze che io ho fatto e sto facendo. Sì. Dunque, io ne vengo da 40 anni di carcere, ma non come detenuto, ma come direttore. Male. Ho diretto le carceri di Roma, Rebibbia, Regina Celi, le carceri del Lazio, dell'Umbria. Però, insomma, parliamo con un ex direttore del penitenziario di Roma, del carcere di Rebibbia. Sì, per fortuna non ci conosciamo personalmente, posso dirlo? Ma per carità, sarebbe una fortuna da parte mia conoscere voi. E nelle carceri ho riattivato, ogni volta che ci sono andato, cercando di far spendere più soldi possibile al mio ministero, ho riattivato le attività teatrali e culturali, in particolare il teatro, che per me è una malattia. Infatti io adesso che sono in pensione faccio teatro. Qui arriviamo al lobby per Napolitano. Arriviamo ai famosi hobby, ai famosi hobby. Ma ho girato le scuole da direttore proprio per incontrare i ragazzi, specialmente quelli delle scuole medie, per cercare di ragionare con loro su che cosa significa delinquere, essere emarginati, essere fuori del tessuto fondamentale, del tessuto portante, del tessuto corretto e onesto della società. E devo dire che ho avuto delle soddisfazioni meravigliose, perché i ragazzi, chiamiamoli ragazzi perché non sono più bambini, noi eravamo bambini piccoli. Caduta la linea, caduta la linea. Allora, cavolo, è interessantissimo, era molto interessante. Tra l'altro consigliato da un personaggio autorevole come l'ex direttore di Rebibbia. Volevo capire dove arrivava, perché magari arrivava fino al famoso La pazzia di Re Giorgio, che è un testo di Alan Bennett, un testo diciamo del quale esiste anche un adattamento teatrale, e mi sembrava perfetto, diciamo, ci da sono consigliare. Altri due suggerimenti: uno cattivo che può passare il tempo a contare gli euro che ha guadagnato in 9 anni, mm-hmm. e questo lo scrive Marco da Pordenone; un altro bello che lo invita a fare lunghe passeggiate in cerca di erbe anche per tisane, lobby della botanica, dice Alfredo dal Veneto. 800 24. Le tisane, le tisane dell'ex presidente. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Intanto diamo subito una notizia, cari ascoltatori, perché c'è stata l'assemblea di quelli di Area Popolare, che dovrebbero essere l'UDC e il partito di Alfano, Nuovo Centrodestra. Sì a Mattarella, hanno deciso anche loro, quindi si aggiungono anche questi voti al pacchetto di Mischia, che era già presente a favore di Mattarella. Mischia. Anche se Renzi, sì, Alfano ha detto voteremo per Mattarella, ma Renzi ha sbagliato. Vediamo cosa dice. Resta sbagliato, l'appello di ieri non è bastato, è quanto avrebbe detto Alfano sottoponendo ai grandi elettori il documento con cui Area Popolare voterà sia la candidatura dell'esponente siciliano. Ha sbagliato nel metodo Renzi, secondo Alfano, perché doveva sottoporre il candidato prima all'intesa con lui e non tirarlo fuori dal cilindro. Come abbiamo detto all'inizio trasmissione, è una questione di metodo. Sì. Chissà però in passato, chi se lo ricorda poi come sono stati scelti presidenti anche apprezzati come Pertini, Ciampi, se non sono venuti fuori da qualche cilindro anche loro, oppure se invece sono stati concordati in precedenza. Una grande trasparenza su queste cose non mi pare ci sia mai stata. Comunque, su Napolitano invece, scusami, sul nostro gioco, noi ricordiamo, stiamo cercando un hobby per Napolitano adesso che non è più presidente. È arrivato un tweet sul mio account personale di Twitter che dice: siccome Napolitano ha insegnato inglese all'università, potrebbe dare ripetizioni a studenti stranieri di inglese e italiano. Ringraziamo Alvaro Parma. Perché no? Allora, insomma, avete visto tra i votati nomi anche sparati un po' a casaccio: non solo Francesco Totti, non solo Sabrina Ferilli, non solo Claudio Sabelli Fioretti, ma c'è stato anche Mauro Morelli. Mauro Morelli. Secondo voto per Mauro Morelli. Sì. Che cazzo è Luciana Castellina. Momento solenne questo qua. Sono in piedi. Sull'attenti. Ecco, facciamolo scorrere l'inno. Che parta. Mauro Morelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'uomo che ha mandato in tilt il più Mentana il più grande anchorman italiano. Ma chi devo dire che a Mentana gli si perdona tutto. Cioè, nel senso, ormai è talmente una persona di casa per tutti noi. Ma cioè, poi se n'è accorto subito. Si vede quasi la mano che spegne il microfono. Di cosa si è accorto? Che era in onda. Che fosse in onda, diciamo. Però sfido chiunque di fronte a Mauro Morelli, a Laura Boldrini, che legge il nome di Morelli, a dire: ma chi cavolo è Mauro Morelli? Ce lo dica lei. Diccelo tu, Mauro. Chi sei? Vabbè, un po' l'avete letto sul giornale, un po' alla fine. Sì. È diventato chiaro in questa vicenda. Io sono un consigliere di municipalità di Napoli, della quinta municipalità. E sono iscritto a sede. Sinistra e non so libertà. Come sia capitato il mio nome lì. In realtà. È questo che ci deve svelare, anche perché io la invidio moltissimo. Io non ho preso neanche un voto, e ho guardato tutte le dirette di Mentana sperando che a un certo punto qualcuno dicesse Carlo Gabardini, e invece non è successo, quindi la invidio moltissimo. Ma guardi, io non credo che ci sia niente da inviare, nel senso che è un onore sicuramente essere accostati alla Presidenza della Repubblica. Certo. Sostanzialmente si entra già un po' nella storia con 9 voti, tra l'altro non un voto ma 9 voti. Io capisco che Mauro Morelli non voglia mettere in difficoltà chi secondo lui potrebbe averlo votato, perché io non voglio mettere in difficoltà difficoltà molto volentieri, ma non lo so. Non lo sa. Però lei in una intervista che le è stata fatta subito a caldo, ha detto che c'è un suo amico parlamentare che potrebbe essere indiziato. In realtà ne conosco tanti, sì? Però smentiscono tutti. Smentiscono, ci sta. Però invece secondo me sarebbe anche, come dire, sarebbe anche giusto dirlo. Ora, qualcuno ha detto è lo specchio dell'Italia, no? Perché questi buon temponi che scherzano in un momento così solenne. Però attenzione, se il presidente del Consiglio Renzi dice votiamo scheda bianca, cioè in pratica annulla le prime tre votazioni, ma come è stato fatto anche in passato, non voglio adesso buttare la croce addosso a Renzi, ma se lui dice così e di fatto rende nulla la prima votazione, questo secondo me rende liberi i grandi elettori di votare un po' quello che gli pare, perché tanto quella votazione era inutile. Diciamo che il presupposto fondamentale è che i parlamentari svolgono il loro mandato senza vincolo di mandato, per cui sono liberi comunque di votare quello che pensano sia meglio per l'Italia. Ovviamente indicare il mio nome è strumentale, probabilmente ha un'indicazione interna. Anche perché lei non ha i requisiti, giusto? A 38 no, anni? No, io ho quasi 38 anni. Esatto. Però qualcuno ci ha voluto vedere una storia. Lei è un precario, tu sei un precario, Mauro, o ho capito male? No, io sono una partita IVA. Diciamo. Una partita IVA, quindi sei un freelance. Che è peggio quasi in questo momento, anch'io sono una partita IVA. Ma perché lei dice un'indicazione? Cioè lei dice che in realtà fosse una scelta, diciamo, che qualcuno per contarsi ha deciso di votare Mauro Morelli e in questo senso? Quello, no? Un regalo oppure un attestato di stima, ma io in realtà non lo so, quindi non posso dirle esattamente cosa è successo. Lo vorrei sapere anche io, se lo scopre. Il primo che lo scopre chiama l'altro, direi. Però a questo punto, Morelli, Mauro, in quanto diciamo candidato in pectore, candidato quantomeno votato. Sono ineleggibile, non sono candidato in pectore. Ma oggi quanti voti pensa di prendere? Ma spero nessuno, perché sarebbe veramente ridicolo. Diciamo così, in qualità di candidato di fatto, un giudizio sull'altro candidato, Sergio Mattarella, a questo punto te lo dobbiamo chiedere. Che ne pensi? Io sono stato molto contento dell'indicazione di Renzi per Mattarella e credo che abbia fatto bene il mio partito ad accettarla. E non capisco le critiche a questa cosa. Insomma. Quale critiche? Cioè, il suo partito SEL, Vendola. Qualcuno dice addirittura ieri Mauro, un attimo, ieri Cacciari ha detto che a lui Vendola avrebbe rivelato 10 giorni fa che il suo candidato per il Colle era proprio Mattarella. Ma io che lui non lo disse per non bruciarlo. Esattamente, è possibile, perché il nome è stato, come dire, un fulmine a cestrino, cioè Renzi ha preso la palla al balzo e ha utilizzato il metodo Bersani, no? Quello lì che elesse il Presidente del Senato e il Presidente della Camera. Ora, se noi non siamo contenti neanche del metodo Bersani, diventa proprio complicato poi fare la politica in un certo modo, ovvero quello di una sinistra che al momento è all'opposizione, ma ha cultura di governo, quindi il punto è fondamentale su questo l'atteggiamento di Renzi. E io credo che faccia bene a votare Mattarella. Ma qual è il metodo Bersani? Che non ho capito, scusi. Quello che prende il centro-sinistra e a Camere riunite riesce a eleggere il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, che sono stati eletti dal centro-sinistra. Ah, ok. Senta, ma questa è un'operazione politica, Attenzione, c'è una novità politica in questa cosa. Sì. Ovvero Renzi bypassa la maggioranza di governo e torna a discutere per la ricerca della figura istituzionale col centro-sinistra. Ma questa improvvisa notorietà, Mauro, pensi che sarà un punto di svolta nella tua... È caduta la linea. È un grandissimo punto di svolta. È caduta al la linea. Tale che se n'è andato. Vabbè, non so se lo recuperiamo, perché in realtà adesso andiamo di gran carriera. Tra poco cominciano le votazioni, tra l'altro. Vi leggo quello che recita lo schermo della Camera dei Deputati. La riunione del Parlamento in seduta comune con le partecipazioni dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è sospesa. Riprenderà sabato 21 gennaio alle ore 9:30. Leggi, stiamo bevendo il caffè. Sì, da ieri. Vabbè, insomma, adesso riprendono, quindi magari qualche spizzico di notizia ve la daremo. Abbiamo gli ascoltatori al numero verde 800240024. C'è Massimo che ci chiama da Siena. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Hobby. Ha un hobby per Napolitano? Avrei un hobby da proporre a Napolitano e agli italiani. C'è un servizio nuovo che viene dal nord Europa, si chiama Be My Eyes, letteralmente siate i nostri occhi, che serve per poter aiutare i non vedenti che si collegano a questo servizio tramite gli smartphone, che è gratuito, anonimo. Il vedente dall'altra parte vede la realtà dove il non vedente tramite la telecamera dello smartphone, e in questo modo può leggere un'etichetta di un medicinale piuttosto che un opuscolo, piuttosto che un cartello vicino alla fermata di un pullman. Cioè, no, mi scusi, il non vedente punta la telecamera del proprio telefonino su qualcosa che ha bisogno di vedere o leggere. Esatto. E qualcun altro. Ma è bellissima, esatto. È bellissima, sì, questa notizia. Esatto. Mi scusi, non la conoscevo, mi sembra veramente stupenda. Si chiama Be My Eyes, si viene dalla Danimarca, in Italia ancora non è diffusa. E napoletano potreste, credo, sappia usare un telefonino, così come tutti gli italiani hanno. Bello, credo sappia usare il telefonino, perché c'è un po' di timore per l'età di napoletano, che magari non è. Oggi gli anziani ci stupiscono più di quello che noi pensiamo. In realtà, però, sarebbe un servizio per tanta gente, che tutti hanno uno smartphone, tutti dovrebbero. Mi sembra molto bella che sia lo stesso presidente a leggere l'etichetta per un non vedente. Mi sembra un ottimo questo hobby. Potrebbe essere l'hobby per napoletano. Grazie Massimo da Siena, lo inseriamo nell'elenco della lista, poi tra poco, insomma, a giudizio insindacabile della redazione di Si Può Fare, sceglieremo il suggerimento per l'hobby migliore, quello che ci è piaciuto di più. Abbiamo recuperato Mauro Morelli, almeno per salutarci. Mauro? Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, vabbè, non importa. È lo stesso, era caduta la linea, ma l'intervista era finita e adesso non risponde più. Abbiamo un altro ascoltato, lo facciamo. Giorgio da Ravenna. Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto complimenti a tutta Radio 24, ai conduttori e ai registi. Grazie. È una radio stupenda, ma tutta. Sì. Poi, ha fatto sorridere il nostro regista in questo istante, quindi grazie mille. Poi volevo dare un consiglio. Io sono stato amministratore delegato di grossissime aziende, 4.000-5.000 dipendenti. Andato in pensione, mi sono iscritto all'università e ho scoperto un mondo meraviglioso, perché si vive in mezzo ai giovani, ci si mette di nuovo in competizione. Che bello! Sì, è una cosa. E da quando sono in pensione ho preso 3 lauree magistrali, culturali, sì. In archeologia classica greca e romana, in storia dell'arte, eccetera. Ma in quanti anni? Ma è un pozzo di scienza a questo punto. No, non sono un pozzo di scienza, sono solo fortunato perché vivo in mezzo ai giovani. I giovani mi apprezzano e quindi mi sento ancora utile a dare loro consigli. Ok, Giorgio, al di fuori, quasi fossi un papà per loro. Beh, certo. Ma quanti anni ci ha messo? Le ha chiesto Carlo. In effetti sono curioso anch'io per prendere queste tre lauree. Allora, prima ho preso una triennale, con la triennale mi sono iscritto alla magistrale e, avendomi abbonato degli esami, sono riuscito a prendere 3 magistrali. Quindi ci ho messo 3 anni, 4, 5, 6, 7 anni. Beh, complimenti. Senta, no, Giorgio, ma qualcuno. Sì, Giorgio, le voglio fare una domanda. Giorgio, la domanda è questa: rivolgendomi a tutti gli altri, altre persone in pensione come lei, che potrebbero essere tentati da questa cosa, ma non si è mai trovato a disagio per essere magari l'unica persona, una delle poche, diciamo. No, l'unica, Come si supera questo? Si supera con un comportamento defilato, abbastanza anonimo, finché non si ottiene piano piano la fiducia. La fiducia e l'amicizia, bravo. L'amicizia dei ragazzi. Quando la si ha, allora si partecipa al gruppo, si dà consigli, si va a bere il caffè alla macchinetta tra una lezione e l'altra. Allora, siccome posso, lo offro io agli studenti. Bravo. Ho la possibilità di offrirlo, quindi. Ma basta un caffè, ci sono le macchinette a 30 centesimi per il caffè nelle università, quindi non è una cosa trascendentale. E poi lo scambio di idee che c'è, ma dallo scambio di idee dello studio si arriva allo scambio di idee sulla vita. e quindi ci si sente veramente utili, ci si mette in competizione, si vive in mezzo ai giovani. Complimenti. Si rimane giovani. Tra l'altro grazie Giorgio da Ravenna per questo suo suggerimento di Obbia Napolitano, c'ha pure lo stesso nome e quindi diciamo il suggerimento è ancora più, puoi dire, così lo accettiamo ancora più volentieri. Ad honorem per me avrebbe già vinto Giorgio da Ravenna per lo spirito con cui ha chiamato, però adesso poi facciamo, mescoliamo il pentolone con tutte le risposte degli ascoltatori, il bussolotto e tra poco assegneremo i biglietti della mostra Wim Wenders America, la mostra organizzata da Alfai a Villa Panza a Varese. Ci fermiamo per un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e caldo, beatamente. Voglio vivere e goder la via del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, ah, oggi amo ardentemente con ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Tieni allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte. Allora, intanto diamo una notizia, perché anche tra gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, adesso confluiti in vari gruppi misti, c'è un'indicazione per 6 voti a favore di Mattarella. Ah, cioè non tutti? Non tutti, 17 voteranno di nuovo Rodotà e gli altri 6 invece confluiranno su Sergio Mattarella. Ripresa la votazione, stanno chiamando i senatori a vita: Monti, Ciampi, Napolitano, Renzo Piano, Rubbia. Non sembra che. No, sì, ecco Monti che sta votando. Chi è che ci dovrebbe essere dietro? Napolitano, In questo momento Giorgio Napolitano sta entrando nella cabina elettorale col suo passo sempre fermo, tranquillo. Diciamo che come hobby lui per il momento vota il Presidente della Repubblica. Ricordiamoci che sia ancora vita e secondo me si farà vedere anche in aula, per cui chissà se è già tempo di hobby, di stare con Clio, o se è ancora tempo di stare diciamo con gli italiani a Montecitorio o a Palazzo Madama, anzi al Senato con gli italiani. Allora, avete sentito la nostra, il nostro voglio vivere così, perché lo risentiamo? Possiamo risentire e metterlo così come allure di sottofondo, perché ci serve per introdurre la nostra prossima ospite. Vediamo se ce l'abbiamo, tac, eccolo qua. Voglio vivere così. Insomma, qua questo voglio vivere così è un bel salto, perché passiamo da una, dalla comunicazione in una famosa ONG a una casa in campagna, dai diritti umani all'orto dietro casa, da Roma alla provincia di Macerata. E tutto questo è Voglio vivere così di Patrizia Vita, proprietaria del Bed and Breakfast, la casa dell'ortigiana di Ussita, provincia di Macerata. Dal traffico ai Monti Sibillini, direi. Fantastico, buongiorno Patrizia. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Eccola qua. Andata giù la linea anche stavolta? No. Ho sentito un tu. Ah, ecco. Allora, Patrizia ci ha scritto. Noi cerchiamo quasi ogni settimana storie di gente che ha deciso voglio vivere così, riprendono la loro vita in mano. Storie che potremmo anche definire scalare marcia, come si dice adesso con l'espressione inglese di downshifting, oppure mollo tutto e me ne vado. Patrizia si è ritrovata forse in questo e ci ha scritto per raccontarci la sua storia, una storia che parte da Roma. Sì, di fatto parte da qua, nel senso che io sono vissuta qui a Ussita fino ai miei 21 anni, insomma, perché qui c'era la mia famiglia, c'erano i miei genitori. Poi ad un certo punto, ovviamente, nei posti piccoli e quando sei giovane... Viene voglia di scappare. Stanno un po' stretti, esatto. Stanno un po' stretti, per cui il passaggio naturale è stato Roma, perché tutto sommato è abbastanza vicina, avevo anche delle relazioni, degli amici, insomma, delle conoscenze. Per cui ho iniziato a vivere lì, appunto, la mia vita professionale, la possibilità comunque di vivere in un contesto più grande, insomma... Tipico, quando sei giovane, ovvio, hai voglia di conoscere tutto. Poi io, curiosa sono, lo sono sempre stata, per cui... E hai cominciato a la tua vita, la mia vita romana. La tua vita romana che è culminata, almeno insomma diciamo per la parte professionale, entrando a lavorare in una grandissima ONG, una delle più importanti. Sì, è stata veramente sicuramente una delle più, ovviamente, non l'unica, ma una delle più grosse esperienze professionali. Diciamolo, perché dove hai lavorato? Ho lavorato alla sezione italiana di Amnesty International, all'interno del, prima nel fundraising e poi all'interno dell'ufficio comunicazione. Quindi in un contesto che più globale di così non si può, insomma. Effettivamente sì, è oltretutto uno di quei lavori che ho scelto, nel senso che l'idea di lavorare per rendere libere le persone, perché poi alla fine, diciamo, il succo di tutto questo è quello, era comunque una cosa che mi, che era quello che volevo fare. Era e possiamo dire lavoro. Che sei stata felice quindi di fare questo lavoro, fino però a un certo punto, quando forse è subentrato un'altra esigenza, un altro ragionamento. Ma di fatto poi uno cresce, no? Invecchia è una parola brutta, quindi cresce, gli anni passano. Giusto, si cresce. Gli anni passano e io ero consapevole del fatto che comunque per me Roma fosse un momento di passaggio, un momento che, perché di fatto non ho mai amato, cioè con tutte le cose bellissime che Roma mi ha dato, perché sarei uno sciocco a dire il contrario. Non ti ci vedevi però a Roma per più di tanto tempo. Esatto, sì. Cioè con il passare del tempo ti rendi conto che poi le tue priorità probabilmente cambiano, per cui ovviamente cominciavo a pensare di vedere qualcosa, di fare qualcosa di diverso. Il tornare qua di fatto non l'ho, è una cosa che poi è nata abbastanza gradualmente, una cosa abbastanza naturale. Ovviamente come vi dicevo, ho avuto la necessità, tra virgolette, di dover tornare parzialmente per appunto una situazione familiare che si andava un po' aggravando, quindi questo anno di telelavoro mi ha fatto di fatto tornare qua. E anche se facevo ovviamente spola tra qua e Roma, però cominciavo a prendere coscienza del fatto che in un posto così ci si poteva stare. A riabituarti alla tua terra, esatto, a questi ritmi anche diversi. Esatto, riabituarmi a questo. E qua inizia una nuova pars construens, come si dice in latino, sì. Perché hai cominciato proprio a costruirti un'altra vita. Ma di fatto sì, nel senso che io appunto ho avuto la fortuna, grazie a tutta la fatica di una vita dei miei genitori, di avere questa casa di famiglia e degli spazi di fatto qua vicino, che per i miei genitori e per mio padre erano degli spazi di fatto di servizio, aveva il suo piccolo orto, i suoi capanni, le sue cose. E quando sono arrivata, mi ricordo, mi sono trasferita qui definitivamente a maggio del 2012. E quando ho messo le mani nel giardino c'era l'erba alta un metro e mezzo, e adesso che faccio? Senza neanche sapere come si impugnava la falciatrice, forse. Assolutamente, ovviamente, il primo approccio col decespugliatore è stato veramente... cioè, dal file Excel al decespugliatore. è un bellissimo salto... Vero, rendo sì, idea. Molto bene, molto bene. E poi mi sembra molto bello questo giusto accenno, il fatto di dire grazie alla fatica di tutta una vita dei miei genitori, cioè di riallacciarsi e di comprendere in qualche modo anche le nostre radici, se vogliamo, e di trasformarle magari in qualcos'altro, quindi non semplicemente di vivere nella casa dei propri genitori, ma di trasformare questa casa e renderla esatto, sì, addirittura renderla direi una scelta di vita, che è quello ma che poi hai fatto. Questa casa è sempre, nella nostra casa ci sono sempre state persone, sono sempre tra amici, è sempre stata una casa piena di gente, i miei genitori hanno sempre l'accoglienza nel loro modo di essere, per cui poi ripeto, ultimamente con gli anni e la malattia questa cosa è andata un po' a scendere ovviamente, perché le priorità erano altre ovviamente. Certo. Per cui l'idea di, io negli ultimi anni di Roma avevo un po' individuato appunto il tipo di vita che volevo fare, l'idea appunto di abbassare un po' la marcia, di dedicare delle cose al rispetto dell'ambiente, al rispetto delle persone, le cose naturali, e qui di fatto avevo tutti gli ingredienti per poter mettere in pratica, tra virgolette, quello che di fatto avevo soltanto letto teoricamente in libri, incontri, corsi, conf- confronti con gli amici, cioè quando comunque si fanno queste scelte uno ha bisogno anche di avere un po' di rassicurazioni, no? Certo. Ma tra l'altro per una donna è anche più complesso, complicato. Forse affrontare, complicato affrontare questi anche sforzi fisici. Ma secondo me la facciatrice invece è assolutamente per le donne, secondo me sono più brave le donne a usare il decespugliatore, se devo essere onesto. Di me di sicuro. È anche di me, perché non saprei da che parte iniziare. E in più giustamente tu dici, cioè parlandone con gli amici così, e poi uno magari spesso non si rende conto che quel tipo di vita che magari desidera un po' ce l'ha come possibilità, ovvero appunto la casa paterna, nel senso che uno pensa sempre di dover andare a cercarla chissà dove, magari con Amnesty International, invece dice ma forse se io resto qui, faccio un passo indietro e da qua posso costruirla questa cosa. E di fatto questo è, nel senso cioè anche l'idea del B&B è una cosa che poi è venuta nei miei sogni, nell'idea c'era sempre stato, poi ovviamente ci sono state una serie di cose che ho dovuto in qualche modo diciamo risolvere. Ho iniziato prima affittando soltanto una stanza della casa in cui vivo, perché il resto della casa ovviamente poi è anche di mia sorella, non è soltanto mia, infatti questa cosa poi è una scelta che alla fine abbiamo fatto assieme, insomma, e devo dire anche grazie a lei, perché insomma, mi ha dato la possibilità di usufruire di alcuni spazi che comunque sono suoi. Quindi lei ringraziamo ufficialmente la sorella di Patrizia, esatto, che ha concesso diciamo anche un po' la sua parte, la sua disponibilità. Il Bed and Breakfast, la casa dell'Ortigiana di Ussita, in provincia di Macerata. E siccome no, lo dico perché magari qualcuno è incuriosito e magari viene lì e ti dà anche una mano, perché insomma si parla anche di ricominciare con un'attività che deve anche renderti insomma qualche cosa per tirare alla fine del mese, però siccome le vecchie abitudini non si perdono, Patrizia, quel che ci ha scritto nella sua mail, adesso ha di nuovo voglia di mettere in rete, di mettere insieme persone, quindi riviene fuori anche questa vena più globale, più cosmopolita, e quindi stai cercando di fare squadra lì. Ma sì, nel senso che adesso appunto con un assetto in cui con questi due B&B di fatto posso ospitare una decina di persone, e questo sto già iniziando a fare delle cose, mi permette ovviamente di lavorare con piccoli gruppi, piccole agenzie che ovviamente passi un fine settimana qua, e la mia parte è quella ovviamente dell'accoglienza, poi ci sono le guide che fanno la parte di trekking, piuttosto che altri amici conosciuti qua vicino che mi hanno aiutato a fare il mio orto sinergico bellissimo, per cui si farà poi a fine anche l'orto sinergico meriterebbe un approfondimento. Magari ci risentiamo, Patrizia, vediamo un po' anche come va avanti la tua storia e ci parli anche dell'orto sinergico. E scrivici delle mail, perché bisogna dire, ci hai scritto una mail veramente bellissima. Stupenda, la quale ti ringraziamo. Hai colpito al cuore tutti. Esatto, aggiungo solo una cosa di questa cosa appena detta, del fatto di fare rete sulle realtà vicine. Infatti Patrizia nella sua mail poi qui apre una parentesi dopo la parola vicine e dice: vicine vuol dire percorrere 70 km di strade di montagna. E mi è sembrato molto bello che è semplicemente, cioè, la spiegazione tutto relativo, e quindi uno vede diciamo la realtà della rete attraverso internet, se vogliamo, anche, e poi la realtà reale dell'automobile che si fa 70 km di tornanti. Grazie Patrizia grazie Vita del Bed & Breakfast, la casa dell'Ortigiana, il suo Voglio Vivere Così di oggi. Va bene, grazie. Basta, ci fermiamo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo Paolo che ci chiama da Salerno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io non chiamo da Salerno, chiamo da Palermo. Ah, scusi, ho sbagliato io, ho letto male io. Palermo. Fantastico. Allora, la città di Mattarella, peraltro, eh? Attenzione. Esatto, la città di Mattarella. Allora, per quanto riguarda il lobby di Napolitano, un consiglio che insomma che io potrei dare, io penso che Napolitano non avrà il tempo di scegliersi un hobby, perché prima dovrebbe smettere di fare il Presidente della Repubblica, perché a mio avviso formalmente non è più il Presidente della Repubblica, ma come si è organizzato con un ufficio di 100 metri quadri, una linea diretta col Viminale. Io penso che il presidente è sempre napolitano. Però guardi che è prassi quella, eh? Nel senso che tutti gli ex presidenti hanno un ufficio, giustamente non si può avere un ex presidente che sì, all'improvviso va a vivere nella sua casetta, e, insomma, certo, è una questione di sicurezza e di un sacco di altre cose. Sì, vabbè, io però lui dice rimane... particolarmente ingombrante Napolitano come ex presidente, sì, per Mattarella, dico, io, la sua previsione. No, io penso di rimanere sempre nella mia idea, perché penso che il, sì, prossimo presidente della Repubblica, sì, sta a Napolitano come Renzi e Letta stanno attualmente a Monti. E come stanno Renzi e Letta a Monti, secondo lei? Bene o male? Perché ancora abbiamo il governo Monti, a mio avviso. Cioè lei dice, c'è Renzi, ma le ricette sono quelle dell'austerità montiana. Va bene, però, questo è anche un, sì, un punto di vista. È la troika quella, diciamo, più che Monti. Monti adesso non mi sembra che stia comandando Monti. No, ma poi la troika è anche un po' andata a pezzi. È sulle isole. Adesso la BCE ha assunto una posizione diversa, è rimasta qualcuno... cioè, vabbè, lasciamo perdere perché sarebbe anche troppo complicato. Poi io non ne so molto di troika. Adesso invece è il momento di... Siamo partiti da una proposta, il crowdfunding per sostituirsi al canone per la RAI. Abbiamo accennato al tema dei bilanci partecipativi e di questo vogliamo parlare, perché dopo il caso di Capannori adesso c'è quello di Legnano. Sonora per questa storia non poteva che essere questa. Il comune di Legnano ha deciso di chiedere ai suoi cittadini come investire 500.000 euro del suo bilancio, e lo fa con un percorso articolato che vede oggi una tappa importante in questa cittadina alle porte di Milano, il Civic Hackathon promosso da Legnano Ideale, e noi ne parliamo con l'assessore Umberto Silvestri, assessore alle attività educative e ai processi partecipativi di Legnano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa buongiorno succederà oggi nelle piazze di Legnano? Beh, intanto complimenti per l'introduzione musicale, davvero. È una bella colonna sonora, eh? Azzeccata proprio. Fa piacere che vi piaccia. Sì. Beh, diciamo che oggi è una giornata molto importante in questo percorso di partecipazione dei cittadini, perché si apre alle 15 il Civic Hackathon, termine inglese ma che tradotto vuol dire un momento di confronto tra i cittadini per la realizzazione di una Legnano ideale. È un po' questo il meccanismo. Che è anche un portale, lo dico subito, dove si trova tutta l'informazione. Sì, anche un portale, esattamente, www.legnanoideale.it, dove si possono inserire tutte le proposte che ogni cittadino ha in testa di proporre all'amministrazione. È abbastanza innovativo, diciamo, questo tipo di confronto, perché intanto prende spunto da iniziative similari che si sono già svolte da parecchio tempo, si svolgono negli Stati Uniti e adesso stanno prendendo piede anche in Europa, molto mirate al discorso dell'informatica e del software. Difatti i primi incontri si sono svolti proprio all'insegna della realizzazione di nuovi software, quindi tanti ragazzi, tanti giovani si mettono e cominciano a ragionare insieme, a elaborare nuovi programmi, nuove applicazioni e così via, no? Ecco, diciamo che noi invece questo meccanismo l'abbiamo trasportato un po' a tutta la città, e quindi abbiamo fatto in modo che i cittadini potessero, attraverso questo momento di confronto, inventarsi delle idee nuove, no? Proporre delle idee nuove. La cosa un po' così anomala, diciamo così, è che non è il solito workshop che dura dalle 8 del mattino fino alle 13 del pomeriggio, no? Ma questo va avanti anche tutta la notte. Quindi abbiamo aperto alla città per 21 ore continuamente. continuative, con la possibilità appunto di ragionare, discutere, confrontarsi anche con molti esperti che diciamo così proporranno le loro iniziative, le loro idee durante tutto il percorso. E questo è quello, che succederà a Legnano oggi e domani, quindi è giusto dirlo, esatto, però ecco, tutto questo si inserisce in questa vostra volontà di creare questo bilancio partecipativo che andrà avanti, perché c'è tempo fino al 15 di febbraio si potranno presentare delle proposte. Poi però tutte queste verranno vagliate, mi scusi se vado di fretta perché arrivare a una prima conclusione, che sarà il 12 aprile, così voi proporrete le ricette migliori di nuovo alla cittadinanza perché le scelgano. Sì, nella giornata della decisione. Perfetto. Si chiama così la giornata in cui i cittadini potranno recarsi a dei seggi che predisporremo nella città per poter scegliere tra un certo numero di idee che saranno state selezionate poi in base alla loro fattibilità. Siamo curiosi effettiva di sapere quali saranno queste idee, caro Assessore Silvestri. Intanto grazie per essere stato con noi. E buon Civic Hackathon. Senti come la grazie mille. Grazie a lei. Mille, buona continuazione a voi. Grazie, arrivederci. Li dovremo risentire per sapere queste idee. Dobbiamo dare il premio. Diamo il premio, vai, lo dici tu. Il vincitore del gioco è Giorgio da Ravenna, giusto? Che vuol mandare Napolitano all'università come esatto. hobby. E la sua storia è bellissima, nel fatto che lui ha preso tre lauree dopo essere stato amministratore delegato per 40 anni di un sacco di aziende. Cari amici in pensione, fate come lui, andate tutti all'università, bellissimo. E vince i biglietti per la mostra del FAI a Villa Panza, la mostra fotografica di Wim Wenders. America, perfetto. Allora, un grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma, ma naturalmente anche a Miriam Lucchetti in redazione, Claudia Schiattone e oggi in assistenza in diretta Daniele Buonamici, Peter Bescapè in regia. Sentiamo domani. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio. Ciao.